Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Buongiorno e ben ritrovati a Olimpia, la città dello sport. Nell'augurarci e nell'augurarvi buone feste, gli dei dello sport ci chiedono di rivivere insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato nel cammino finora fatto nelle strade di Olimpia. Ebbene, il recente disgelo nei rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Cuba ci ha fatto inevitabilmente ripensare al simbolo della rivoluzione cubana insieme a Fidel Castro, Ernesto Che Guevara. Rivoluzionario, intellettuale, medico, ma anche appassionato di sport, soprattutto di rugby, il Che. Sentite un po'. Laureando in medicina, studi sulla lebbra. Arriva il furibondo della serra, il Fuser! Partito di rugby. Dai, tu, bravo, Fuser! Il furibondo colpisce ancora! E occasionalmente asmatico. Leggendario questo incipit del celebre film I diari della motocicletta. Sì, perché c'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Che, Ernesto Guevara fu semplicemente uno studente di medicina innamorato del rugby, come ci ricorda Sergio Giuntini, storico dello sport e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Che Guevara si avvicina al rugby attraverso i fratelli Granado, cioè attraverso in particolare Alberto Granado, che è uno dei suoi maggiori amici, quel biologo con cui farà il leggendario viaggio in motocicletta in America Latina tra la fine del 51 e il luglio del 52, perché Granado giocava a rugby a Cordoba. Loro sono due studenti e iniziano a giocare nella squadra degli Estudiantes di Cordoba. Giocatore appassionato e volenteroso, ma con limiti ben evidenti, il rugbista Ernesto Guevara. Il Che era fisicamente, insomma, rispetto ai canoni del rugby, era abbastanza esile e soprattutto soffriva di questa forma di asma molto acuta che qualche volta gli ha procurato anche dei guai abbastanza seri. C'è un passaggio, insomma, nella sua biografia in cui sostanzialmente durante un incontro di rugby svenne alla presenza del padre e della sorella, che si preoccuparono molto. Dalle testimonianze che abbiamo era un tre quarti ala e veniva considerato però anche un buon placcatore. Opinione condivisa da Bebo Dolan, sacerdote, che allenò per alcune stagioni quello che sarebbe diventato poi il Che nel club San Isidro di Buenos Aires. I was coaching Ernesto Guevara for 3 years and he had a problem in the breathing. We call it in Spanish asthma. And I had to go next to the touchline. L'ho allenato per 3 anni ed è vero che aveva delle difficoltà con l'asma, dice Dolan, tanto che doveva avere sempre delle medicine a bordo campo. Amava il rugby, anche se era penalizzato dalla bassa statura, e obbligavo allora il fratello Alberto, che era davvero bravo, ad aiutarlo durante il match. Ma Ernesto ci metteva il cuore ed era un placcatore davvero niente male. Da rugbista Ernesto ha anche l'occasione di incontrare personalità illustri legate all'Italia, ci ricorda ancora Sergio Giuntini. Guevara gioca rugby dal 1942 al 1951. Nel 49, quando gioca nel club Sant'Isidro di Buenos Aires, ha conosciuto Hugo Pratt. Appena emigrato in Argentina, aveva giocato in Italia un po' a rugby a Venezia e avvicinandosi al rugby argentino, lì conobbe Che Guevara. Poi giocherà sempre il Che in altre squadrette di Buenos Aires, Liporà, l'Atalaya Polo Club, i Mandarines. E sarà proprio intorno al campo di rugby che Guevara si scoprirà anche giornalista. Ha anche fatto per un breve periodo di tempo, nel 51 appunto, quando termina la sua carriera rugbistica, potremmo dire il giornalista che si occupava di rugby, perché insieme al fratello, che invece rispetto a lui era un ottimo giocatore di rugby, in famiglia era il rugbista più valido, danno vita a una rivista che si chiamava Tackle,

Lo hanno realizzato Strumolo e Cavassi, finalmente uniti sotto la stessa bandiera nel superiore interesse della boxe italiana. E così una stagione ricca di avvenimenti memorabili si conclude degnamente con l'incontro più atteso di tutta l'annata, Loi Famchon. Il principe, certo, ma la Milano del pugilato in quegli anni aveva mille centri di attrazione e di interesse, come ci racconta Gino Cervi, coautore del volume Milano nello sport, edito da Epli. Per tanti anni Milano è stata un po' una capitale del pugilato nazionale, anche con un certo rilievo internazionale, ed era una vera e propria disseminazione di luoghi che andavano dai teatri, dagli stadi stessi, la stessa arena, il velodromo Vigorelli, senza poi contare le sale in cui si faceva anche l'allenamento, quindi le sale storiche legate alle società pugilistiche. Erano tante bandierine puntate nella città di luoghi più o meno famosi, appunto da San Siro che negli anni 60 si riempiva di 80.000 persone per assistere ai match di Duilio Loi, di Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, la stessa arena che negli anni 20 ha ospitato numerosi incontri di pugilato di una stagione particolarmente intensa, di quegli anni ruggenti del pugilato italiano, per arrivare appunto anche al Vigorelli, uno scenario consueto che anche lì ha visto le imprese di Loi e di altri campioni. Ora si riparte tra memoria del passato e uno sguardo a un futuro che può regalare nuove soddisfazioni. Rocky Giuliano ci crede. Tutto sommato, forse il periodo più buio è stato superato. Questa idea del principe è una bellissima idea, tra l'altro dovuta all'ultimo dei Cherchi, Alessandro Cherchi, che ha 29 anni, quindi uno molto giovane, il quale sta facendo delle cose buone, ha delle idee, anche questa qui del principe è valida, perché poi ci sarà solo pugilato, nel senso classico, diventerà anche una sala eventualmente per i convegni, ci sarà spazio anche per i dilettanti, diciamo che la carne al fuoco c'è. Sentito quanta storia e quante emozioni possono esserci intorno a quel quadrato magico che è un ring di pugilato? Molto simili, immagino, quelle emozioni a quelle che deve aver provato Beppe Bergomi, mito dell'Inter e della Nazionale, il giorno dell'esordio in azzurro, in quel pomeriggio del 14 aprile dell'82 a Lipsia contro la Germania Est. E proprio lo zio del calcio italiano ci ha guidato alla scoperta del football dell'altra Germania, una tradizione nata al di là di quel muro di cui quest'anno abbiamo celebrato il 25esimo anniversario della caduta. Si tralasciava insomma il talento, le qualità tecniche più per uno spirito di gruppo, ecco, si sono sempre contraddistinti per questo tipo di calcio. Io mi ricordo loro qualche risultato importante a livello di juniores, insomma a livello giovanile, e poi insomma non sono mai riusciti a dare continuità a certi tipi di risultati. Magari potevano anche ottenere un risultato importante, mi viene in mente quando vinsero nel 74 insomma contro la Germania dell'Ovest, però dopo non riuscivano mai ad andare oltre alla singola partita, magari in una manifestazione, a raggiungere risultati importanti. Hai ricordato, Beppe, un anno magico per il calcio della Germania orientale, il 1974, quando la DDR batté addirittura la Germania Ovest, poi campione del mondo, ai mondiali in Germania. Impresa clamorosa, preceduta da un'altra, forse anche più importante, la conquista da parte del Magdeburgo della prima e unica Coppa europea vinta dai tedeschi dell'Est. È l'8 maggio 1974 quando a Rotterdam il Magdeburgo affronta in finale non l'Inter, di cui il nostro Beppe Bergomi sarebbe presto diventato una bandiera, ma proprio il Milan di Gianni Rivera e del tedesco occidentale Schnellinger. Rossoneri grandi favoriti, ma sono i tedeschi a imporsi per 2-0. Apre le marcature un'autorete del milanista Lenzi al 42esimo. Eigentor 1-0 für Magdeburg. Wir haben jetzt Wiederholung Raucus. Ja, das ist Pech für die Italiener. Eigentor durch Lanzi. E nella ripresa è Seguin a fissare il 2-0 per i bianco-blu. Così Alberto Bigon, allora centravanti del Milan, ricorda quella serata al nostro microfono. Ma sicuramente era una squadra importante, visto poi come andò la serata e come andò poi anche il cammino del Magdeburgo, che fece poi una notevole strada a livello europeo. sicuramente era un outsider, sicuramente il Milan era favorito, ma la Coppa ci sfuggì dopo che avevamo vinto quella contro il Leeds a Salonicco, contro una squadra decisamente, con tutto il rispetto per il Magdeburgo, molto più forte, molto più titolata e blasonata. E quella sera il Milan era in grave difficoltà, si accavallarono infortuni e situazioni particolari che non permisero a Giovanni Trapattoni di schierare la formazione ideale. In campo ad alzare al cielo quella Coppa delle Coppe anche quello Jürgen Sparwasser, mezzala, che di lì a qualche settimana scriverà la pagina più celebre del calcio della Germania dell'Est, ai mondiali del 1974, ospitati, come dicevamo, proprio dalla Germania Ovest. Signori all'ascolto, buonasera. Eccoci giunti alla partitissima del gruppo 1 tra le due Germanie. È gara importante per intuibili motivi di carattere soprattutto extrasportivo. E il pubblico ha risposto a pieno e gremisce in ogni ordine di posti le tribune del Volksparkstadion di Amburgo. È proprio Sparwasser al 77esimo a rompere l'equilibrio. Il lancio in direzione di Sparwasser, tiro e gol. 1-0 per la Germania orientale, passata in vantaggio la Germania orientale con gol di Sparwasser, incredibile, alla mezz'ora di gioco della ripresa Sparwasser. La Germania Ovest cerca la rimonta, ma eccolo il fischio finale e la gioia degli orientali che esplode. Melina dei tedeschi orientali, sbagliato il passaggio, ne approfitta Beckenbauer, ribatte però lo stesso Weise, capriole di gioia dei tedeschi orientali, invasione di fotografi in campo. Si immortala la scena, la Germania orientale ha battuto ad Amburgo per 1-0 la Germania occidentale, una partita valida per il gruppo 1 dei mondiali ed ha quindi vinto, così come aveva promesso Büchner, il girone eliminatorio. Ha segnato al 30esimo della ripresa su azione di contropiede Sparwasser. Beckenbauer e soci solleveranno al cielo la Coppa del Mondo battendo 2-1 in finale l'Olanda a Monaco di Baviera. I tedeschi orientali si areneranno invece nel girone di semifinale. Ma vuoi mettere la gioia di vincere il derby? Beh, davvero belle le storie che abbiamo ritrovato per le strade di Olimpia. Grazie a Fabio Cantadori in regia. Per la puntata di oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast attraverso il nostro sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti e ancora auguri di buone feste.